America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, fumata nera ieri alle Nazioni Unite. Vi avevo anticipato, ne parliamo ormai da tre giorni, che ci sarebbe stato ieri mattina un voto al Consiglio di Sicurezza per le Nazioni Unite per il rinnovo della missione degli osservatori in Siria. Ecco, questo mandato, il mandato per questa missione scade oggi. E se non vi sarà un rinnovo, se non si troverà un compromesso, beh, l'unico contatto diretto che c'è fra le Nazioni Unite o comunque fra il resto del mondo e questo paese che rischia di essere travolto da una guerra civile che potrebbe essere devastante, ecco, questo unico contatto potrebbe svanire. Intanto vediamo cosa è successo ieri. Vi ho detto che vi sarebbe stato un testo inglese che prevedeva nuove sanzioni e l'invocazione del capitolo 7, che cioè prevede l'impiego delle forze armate per applicare, per far sì che alcune di queste sanzioni siano applicate come ultima istanza. Ecco, 11 voti favorevoli, 2 contrari, il veto di Cina e Russia. Insomma, sembra davvero di essere tornati all'atmosfera della guerra fredda, gli Stati Uniti, l'Occidente e gli altri paesi membri allineati su un unico fronte, Cina e Russia contrari. L'astensione di Sudafrica e Pakistan, che comunque non avrebbero modificato l'esito se Cina e Russia non avessero posto il veto. Si sta considerando un rollover tecnico di 30 o di 45 giorni che potrebbe essere votato oggi, ma intanto profonda insoddisfazione americana. Sentiamo Susan Rice, il rappresentante permanente degli Stati Uniti all'ONU, chiacchierata come possibile sostituta di Hillary Clinton al Dipartimento di Stato se Obama vincerà le elezioni a novembre. We've been very clear that a rollover of the United Nations mission without it being tied either to the potential for consequences for non-compliance or to an improvement in the situation on the ground doesn't make any sense. Siamo stati molto chiari, ha detto la Rice, un rollover della missione senza l'inclusione di conseguenze per il non rispetto dei patti o almeno un miglioramento della situazione sul campo non ha senso. Potremmo essere disposti a considerare un ultimo breve prolungamento se questo consentisse il ritiro degli osservatori e dei civili dal paese in tutta sicurezza, ma ripeto, non è fattibile prolungare la missione in queste condizioni. Dunque molta freddezza, complicazione, difficoltà alle Nazioni Unite. E passiamo all'altro grande argomento di questa settimana, con delle novità rilevanti ottenute dal Sole 24 Ore: lo scandalo LIBOR. Is there any doubt in your mind that these banks hurt the city of Baltimore? Absolutely no doubt. We cannot stand by when we feel that we are being cheated. Stephanie Rowling Blake, sindaco di Baltimora, una donna attraente, afroamericana, decisa, determinata, dice: non ho alcun dubbio sul fatto che le banche abbiano provocato un danno al comune di Baltimora. Non possiamo far finta di niente quando sappiamo di essere stati presi in giro. Stiamo parlando di alcuni milioni di dollari che per noi significano stazioni dei vigili del fuoco, centri ricreativi, servizi di cui la città ha bisogno, e lotteremo per averli. Vi ho fatto ascoltare queste dichiarazioni della Rowling Blake di qualche tempo fa, perché nel frattempo sono riuscito a entrare in possesso di un documento, il documento depositato presso la Corte Distrettuale a New York, Southern District, una denuncia, la richiesta di una causa fra i querelanti, appunto la città di Baltimora, ma anche il fondo che tutela i programmi di pensionamento dei vigili del fuoco e della polizia di New Britain in Connecticut, e la prima class action suit, la prima causa in forma comune di cui abbiamo notizia legata allo scandalo LIBOR. Dunque partono le cause, e quando partono le cause, soprattutto in America, non si sa dove si va a finire. Ho raccolto varie indiscrezioni, ho parlato con un avvocato che segue direttamente questa causa. Il danno complessivo, secondo alcuni esperti, nel momento in cui si andrà avanti potrebbe raggiungere i 40-50 miliardi di dollari. Certo, sarà un caso molto difficile da provare, forse soltanto una frazione di quell'ammontare sarà risarcito. Uno degli aspetti interessanti che ho scoperto in questa documentazione, che non era mai stata pubblicata prima, è che la causa risale al 30 aprile del 2012, quindi prima che esplodesse lo scandalo a Londra. A pagina 36, dopo una lunghissima collezione di capi d'accusa, si legge: in base all'articolo 38A delle procedure civili federali, il querelante Baltimora chiede che sia istituito un processo con giuria per ogni capo d'accusa. Dopodiché sono riuscito a trovare l'avvocato Arun Subramanian, che sta tutelando per conto dello studio legale Sussman Godfrey, uno dei più importanti a New York, questa causa, è uno dei firmatari del documento legale. Ecco, mi ha spiegato che in realtà forse ci vorrà un po' di tempo per poter avere una data. Perché? Ma perché nel frattempo il cerchio si sta allargando. Sono partite inchieste di ogni genere da parte della Security Exchange Commission, che tutela la borsa, da parte dell'FBI. Una situazione che si va allargando, complicando, non soltanto a Londra ma anche in America. Perché? Beh, perché ci sono diverse categorie, questo mi ha spiegato l'avvocato. Ci sono per esempio tutte le municipalità, e quindi piano piano queste municipalità potrebbero raggiungersi alla class action di cui vi ho parlato prima. Perché pensate che il 75% delle municipalità americane ha sottoscritto degli strumenti finanziari che poggiavano sull'LIBOR. Vediamo un attimo di capire l'aspetto tecnico, perché questo è importante, cercherò di semplificarlo al massimo. Dunque, cosa succede? Succede che il LIBOR è un tasso di interesse sugli euro-dollari, sui dollari trattati in Europa, e da alcuni è considerato, o era considerato, un tasso più stabile. Dunque, invece di concedere dei prestiti in cambio di tassi americani, si concede un prestito basato che poggia sull'LIBOR, è uno dei tanti strumenti speculativi. Cosa succede se delle banche o degli operatori intervengono per manipolare questo tasso, cioè lo abbassano al di là di quello che dovrebbe o lo alzano al di là di quello che dovrebbe? Beh, se il tasso viene abbassato, ne traggono vantaggio coloro che hanno preso i soldi in prestito, per esempio coloro che hanno sottoscritto un mutuo, ma viene danneggiato invece chi ha dato questi soldi in prestito, perché incassa naturalmente un tasso di interesse inferiore. E questo è il punto centrale su cui si dibatterà in tribunale. È un'impresa pazzesca, perché poter ricostruire tutti i passaggi di andamenti dei tassi di interesse nel corso degli anni, soprattutto fra il 2007 e il 2008, è un'impresa quasi impossibile, ma è un'impresa che, conoscendo gli avvocati americani, sarà portata a termine. The president has made this part of his campaign rally. Everywhere we go, or he goes, we hear him talking about millionaires and billionaires and executives and Wall Street. And it's a very envy-oriented, attack-oriented approach, and I think it'll fail. Qual è l'altro aspetto di questo scandalo LIBOR? Vi dicevo, sarà complicato e ci vorrà tempo per poter provare che le banche hanno davvero commesso delle irregolarità manipolando questi tassi. E devo dire la verità, anche se poi si tratta di 40-50 miliardi di dollari, che a noi sembra una cifra pazzesca, nel momento in cui fossero divisi fra 10-15 banche, questi 50 miliardi di dollari diventa un danno di 2-3 miliardi di dollari per banca. Pensate che JP Morgan Chase da sola ha perso 6 miliardi, 7 miliardi di dollari al secondo trimestre. Alla fine la perdita netta è stata molto limitata, perché sono banche, sono istituti questi che nel corso di un singolo trimestre fanno profitti da soli di 5-6 miliardi di dollari. L'impatto morale tuttavia c'è e ci sarà, e in questo momento c'è un risvolto politico. Vi ho fatto sentire la voce di Mitt Romney. Perché? Beh, perché i democratici improvvisamente si sentono stretti in un angolo. Come mai, ci si chiede, Tim Geithner, il segretario al tesoro, non ha denunciato pubblicamente quello che aveva scritto privatamente in una lettera al governatore della Banca d'Inghilterra, e cioè che sospettava che potessero esserci delle manipolazioni dell'LIBOR? Perché in 4 anni non ha concesso un'intervista, non è andato al Parlamento, non ha fatto una dichiarazione in proposito? Sembra che la campagna Romney stia cercando di sfruttare questo aspetto per lanciare un contrattacco su quella che è l'impalcatura principale sul piano politico della campagna elettorale di Barack Obama contro il suo concorrente repubblicano, e cioè screditare Romney come troppo vicino agli ambienti finanziari, troppo favorevole a una deregolamentazione bancaria, troppo vicino al business. Ecco, a quel punto Romney può dire: ma come, io troppo vicino al business? E voi? Voi che addirittura avete chiuso un occhio e poi pure quell'altro nei confronti di queste banche? Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo essersi sciolti appena lo scorso anno, i Sonic Youth stanno ora pensando di pubblicare materiale inedito, come il filmato di un loro tour dell'86 e l'audio di un concerto del 1985 e altre rarità. E dunque ai Sonic Youth dedichiamo la canzone del giorno, Teenage Riot. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!